Questa è una, diciamo, interpretazione del problema soprattutto legata alla sostenibilità del sistema pensionistico, che va direi per la maggiore sia all'interno delle interpretazioni che ne danno le istituzioni internazionali come Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, ma anche insomma un po' quelle che sono le linee di politica economica provenienti da Bruxelles, cioè l'idea che per far sì che un domani insomma ci siano i soldi per pagare le pensioni di chi oggi sta lavorando e un domani si dovesse trovare a ritirarsi, sia necessario aumentare la capacità, diciamo, dell'offerta di lavoro, quindi praticamente delle persone disponibili a lavorare, perché altrimenti mancano i soldi in futuro, in un contesto in cui chiaramente l'Europa, diciamo, non brilla in quanto a tasso di natalità. E in Germania c'è il problema ulteriore e speculare, come dicevi tu, all'Italia e ad altri paesi dell'Eurozona, che praticamente si lavora ad una velocità molto più alta del mercato del lavoro, tanto da rendere, diciamo, impossibile trovare altra forza lavoro disoccupata da assumere. Naturalmente ci sono due aspetti del problema da separare quando si tratta di questo. Il primo è che ovviamente quando un'economia si approssima in qualche modo alla piena occupazione, qualsiasi tipo di investimento produttivo che anche, diciamo, voglia collocarsi sul mercato perché ha una ottima prospettiva di rendimento, fatica a trovare forza lavoro e si cade in quella condizione un po' di assenza strutturale di forza lavoro, che fa sì che non basti la domanda aggregata a aumentare, diciamo, le capacità produttive dell'industria, cosa che naturalmente non si verifica in un'economia come invece la nostra, dove appunto abbiamo un tasso di disoccupazione ufficiale all'11% e se consideriamo all'interno di questo contenitore anche tutte le persone che sono sottooccupate, inattive eccetera, si arriva molto facilmente a circa il doppio di questo valore. L'altro aspetto è che, come dire, da un lato è curioso notare che l'architettura istituzionale dell'Eurozona era basata anche molto sull'idea che in presenza di shock asimmetrici che colpissero i paesi in maniera differente ci fossero migrazioni interne all'area euro che rendessero in qualche modo profittevole per i lavoratori anche specializzati che si trovavano nelle aree più colpite da crisi il fatto di potersi trasferire all'estero e comunque contribuire a riequilibrare il meccanismo. Cosa che è avvenuta, nel senso che abbiamo avuto un saldo di emigrazione che insomma ha portato via dal paese sia cervelli sia comunque lavoratori di tutte le tipologie, ma non è avvenuto, come dire, abbastanza, come ad accade ad esempio invece negli Stati Uniti, per mille ragioni tra cui barriere linguistiche, barriere culturali e il fatto che comunque, diciamo, la storia dei paesi europei è davvero differente rispetto a quella degli stati dell'Unione Monetaria Americana. Dall'altro naturalmente c'è l'idea che appunto grazie all'immigrazione si possa, proveniente naturalmente da area extra euro, si possa andare a colmare quei gap strutturali di forza lavoro che alcuni paesi, diciamo, richiedono. Ora, nel caso della Germania, naturalmente, appunto, come dicevamo, quando ci si approssima alla piena occupazione è ragionevole pensare che vadano attratte altre competenze. Il problema è quando la stessa politica in qualche modo viene consigliata anche per paesi come il nostro, dove invece il problema è un po' diverso. E soprattutto questo confligge, appunto, come dicevi, con il fatto che se da un lato, diciamo, gli economisti tedeschi consigliano il fatto di poter aprire all'ingresso di nuovi migranti, dall'altro le pressioni interne soprattutto al partito di Angela Merkel, che guardano verso destra, fanno sì che sia davvero difficile vedere un allentamento dal lato delle politiche migratorie in un contesto in cui già i partiti euroscettici in Germania crescono moltissimo e anche soprattutto con una connotazione marcatamente anti-immigrazione, e quindi sembra un po' un appello destinato a cadere nel vuoto. Peraltro la stessa cosa potrebbe avvenire anche, diciamo, all'interno degli altri paesi dell'area euro, perché appunto la posizione che sembra emergere sia dalle politiche migratorie di questi ultimi anni sia dall'assenza, potremmo dire, di coordinamento tra i paesi per la gestione delle stesse, è quella di arrivare a considerare l'apertura vera, diciamo, delle rotte migratorie soltanto in casi molto eccezionali, che poi in qualche modo vengono comunque richiamati dalla stampa come esempi di grande apertura. Ricordiamo ad esempio il caso in cui la Germania aprì appunto alla rotta siriana e si parlò, insomma, della benevolenza di Angela Merkel come Premier, salvo poi appunto chiudere le frontiere poco dopo e in qualche modo operare una sorta di attrazione selettiva dell'immigrazione. Il rischio è proprio che alla fine si scarichi sui paesi che hanno magari già, come il nostro, una forte presenza, una forte esposizione al fenomeno, tutto il peso dell'aggiustamento, della gestione dell'emergenza, mentre così come anche è successo per la poca solidarietà dimostrata in materia valutaria, la stessa assenza di solidarietà venga in qualche modo fuori quando si parla di gestione del fenomeno migratorio. E quindi se da un lato diciamo abbiamo degli argomenti economici a supporto dell'idea che la Germania abbia bisogno di attrarre forza lavoro anche proveniente dall'immigrazione, dall'altro la realpolitik, così come nel caso della moneta, sembra impedire in qualche modo il processo anche per questo aspetto. E qui si arriva un elemento che in un certo senso è comico, no? Visto il dibattito che c'è anche in Italia su questi temi, perché l'alternativa, secondo appunto alcuni articoli, alcune opinioni, è che arrivi una sorta di riforma Fornero in salsa tedesca, cioè che si innalzi l'età pensionabile fino ai 70 anni per mantenere più persone al lavoro in Germania. Esatto, cioè qui si arriva al paradosso secondo cui in sostanza non è stato fatto abbastanza sul lato dei conti pubblici per giustificare la persistenza del sistema pensionistico e quindi bisogna fare ancora di più, e se naturalmente manca la solidarietà necessaria di cui si parlava per attrarre migranti, allora il punto è alzare l'età pensionabile. Ora, questa visione che appunto ispira in forma un po' il documento, così come altre pubblicazioni che abbiamo visto in questi anni, è basata sull'idea che appunto, siccome in qualche modo sono i contributi presenti dei lavoratori che sono attualmente al lavoro a finanziare le pensioni, allora un domani diciamo sarà impossibile, a meno che le persone non stiano lavorando. E ciò, l'elemento mancante di tutta questa analisi è che in realtà il problema del finanziamento delle pensioni non si pone in termini monetari, nel senso che in termini monetari in realtà, come ha ricordato anche l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan in una famosa interrogazione con il deputato O'Ryan, i mezzi monetari che i governi hanno a disposizione per finanziare le pensioni non sono mai scarsi, a meno che naturalmente non ci si trovi di fronte a dei vincoli come quelli che i nostri paesi si trovano a dover fronteggiare nell'area euro. Ma il problema è piuttosto quello di capire se le pensioni possono acquistare dei beni e servizi reali prodotti. E a questo proposito, per generare beni e servizi reali bisogna che ci sia una crescita dell'occupazione. Per cui se dovessimo opporre diciamo una raccomandazione di policy a chi ci suggerisce di alzare l'età pensionabile per finanziare le pensioni dei tedeschi, dovremmo dire che bisognerebbe creare più lavoro anche per i giovani e anche per coloro che invece sono ancora in un'età attiva di lavoro, per far sì che si creino quei beni e servizi reali che poi le pensioni devono in qualche modo acquistare. Si entra un po' nel paradosso in cui si hanno contemporaneamente un'alta disoccupazione giovanile e una dispersione della disoccupazione che penalizza soprattutto i paesi come il nostro, e poi si fa in modo che le persone debbano essere costrette a restare al lavoro oltre un'età alla quale sarebbe invece ragionevole andare in pensione.